Capitolo 31. L'indomani Harry Crawford si recò nuovamente a Mansfield e a un'ora più mattutina di quanto una visita normale comportasse. Le due signore erano insieme nella saletta della colazione e fortunatamente per lui Lady Bertram era sul punto di uscirne quando egli vi entrò. Era già quasi sulla porta ed essendo inconcepibile per lei aver fatto tanta fatica invano, dopo aver accolto l'ospite cortesemente ed aver accennato al fatto di essere attesa, disse al domestico «Avvertite Sir Thomas» e uscì. Harry, felicissimo di vederla andar via, le si inchinò, la guardò uscire e senza perdere un minuto di più si volse immediatamente a Fanny e tirando fuori dalla tasca alcune lettere disse con un fare pieno di ammirazione «Devo dichiararmi infinitamente obbligato a chiunque mi concede l'opportunità di vederla da solo o a sola. L'ho desiderato più di quanto lei possa farsene un'idea. Conoscendo l'intensità dei suoi sentimenti fraterni, mi sarebbe stato quasi insopportabile che qualcun altro qui in casa condividesse con lei la prima notizia della novità di cui sono l'autore. È promosso, suo fratello è tenente». Ho l'immensa soddisfazione di congratularmi con lei per la promozione di suo fratello. Ecco le lettere che me lo annunciano, giunte proprio poco fa. Forse le farà piacere gettarvi un'occhiata. Fanny non riusciva a dir parola, ma lui non desiderava che parlasse. Il vedere l'espressione del suo sguardo, il mutamento del colore del suo viso, il vederla passare dal dubbio alla confusione alla felicità gli era più che sufficiente. Prese le lettere che egli le porgeva. La prima era dell'ammiraglio, il quale informava il nipote, in poche parole, che il suo intervento aveva avuto successo. Il giovane Price era promosso tenente. Erano accluse altre due missive, una del segretario del primo lord dell'ammiraglio in risposta ad un amico, di cui l'ammiraglio aveva sollecitato gli uffici. L'altra di quello stesso amico all'ammiraglio stesso, in cui si diceva che sua signoria era stato felicissimo di prendere in considerazione la raccomandazione di Sir Charles, che lo stesso Sir Charles era lietissimo di avere l'occasione di dar prova della stima in cui teneva l'ammiraglio Crawford, e che la circostanza della nomina di Mr. William Price a secondo tenente della corvetta Thrush della Regia Marina, già ufficialmente comunicata, era stata accolta con estremo favore in una vasta cerchia di importanti personalità. Mentre reggeva quei fogli con mano tremante e gli occhi le andavano dall'uno all'altro, a mano che il cuore le si gonfiava di commozione, Crawford continuò con slancio sincero a esprimere quanto partecipava a tutta la vicenda. «Non oso parlare della mia gioia personale», disse, «per quanto grande essa sia, perché è nulla in confronto alla sua. Paragonato con lei, chi ha diritto di dirsi felice? Mi sono quasi risentito con me stesso per aver saputo in anticipo quello di cui lei aveva il diritto di essere informata prima di chiunque altri. Tuttavia non ho perso un istante. La posta è giunta in ritardo questa mattina, ma dopo il suo arrivo non ho frapposto un momento di indugio. Non tenterò di descriverle quale sia stata in proposito la mia impazienza, la mia ansia, la mia febbrile tensione, quanto io sia stato profondamente mortificato e crudelmente deluso per non aver condotto in porto la cosa prima di lasciar Londra. Mi ero trattenuto giorno dopo giorno nella speranza di vederne la felice conclusione, perché nulla che mi stesse meno a cuore di questa avrebbe potuto trattenermi nemmeno metà tempo lontano da Mansfield. Ma benché mio zio avesse preso in mano la cosa con tutto il calore che io potevo desiderare e si fosse dato immediatamente da fare, incontrò difficoltà dovute all'assenza di un amico e agli impegni di un altro e io non riuscii a sopportare una più lunga attesa in città. Così, sapendo in quale buone mani lasciavo la pratica, veni via lunedì, confidando che non sarebbero giunti molti corrieri prima che mi venissero recapitate lettere come queste. Mio zio, che è il miglior uomo del mondo, si è subito adoperato e sapevo che lo avrebbe fatto una volta che avesse conosciuto suo fratello. Ne ha ricevuto una favorevolissima impressione. Ieri mi sono trattenuto dal dire quanto sia stata favorevole o dal ripetere metà di quello che l'ammiraglio mi disse in sua lode. Ho rimandato il tutto finché il suo apprezzamento si fosse dimostrato quello di un vero amico. Come queste lettere chiaramente dimostrano. Ora posso dire che nemmeno io potevo sperare che William Price suscitasse un più vivo interesse o fosse accompagnato da più caldi auguri e da più sentiti elogi di quelli spontaneamente fatti da mio zio dopo la serata che lui e William trascorsero insieme. «Dunque, tutto questo è stata opera sua!» esclamò Fanny. «Mio Dio, Quanto è stato buono! Lei ha veramente... è stato per suo desiderio! Oh, le chiedo scusa, ma sono sbalordita! L'ammiraglio Crawford si è interposto e come... sono stupefatta! Harry fu felicissimo di spiegare meglio il tutto, prendendo la cosa da più lontano ed esponendo in ogni particolare il suo operato. Il viaggio a Londra era stato intrapreso al solo scopo di presentare William a Hill Street e di ottenere che l'ammiraglio mettesse in opera tutta la sua influenza per farlo promuovere. Questo era stato il suo affare. Non lo aveva detto ad anima viva, non ne aveva fatto parola nemmeno con Mary. Prima di essere sicuro dell'esito, non si sentiva di partecipare alle sue speranze. Era stato il suo affare. E parlò con tale calore della sollecitudine che lo aveva spinto e impiegò espressioni così forti, insistette così ripetutamente sul più profondo interesse, sul duplice motivo, sui progetti e desideri più grandi di quanto potesse dire, che Fanny non avrebbe potuto ignorare dove egli mirava se fosse stata in condizioni di ascoltarlo spassionatamente, ma il suo cuore era così colmo e i suoi sensi ancora talmente sbalorditi che era in grado di ascoltare solo imperfettamente perfino quello che egli le diceva di William. E quando fece una pausa, seppe solo esclamare: «Che bontà la sua! Che grande bontà! Ah, Mr. Crawford, le siamo infinitamente obbligati! Carissimo, carissimo William!» E balzando in piedi si affrettò verso la porta, esclamando con impeto: «Vado dallo zio deve saperlo al più presto!» Ma questo Crawford non glielo poteva permettere. L'occasione era troppo bella, la sua impazienza troppo grande e le fu dietro immediatamente. No, no, non doveva andarsene. Doveva concedergli ancora 5 minuti. La prese per mano, la ricondusse alla sedia che prima occupava e giunse nel bel mezzo della sua seconda spiegazione, prima che lei sospettasse del perché fosse stata trattenuta. Quando lo capì, tuttavia, e seppe che egli si aspettava che lei credesse di avergli ispirato sentimenti che il suo cuore non aveva mai conosciuto prima, e che tutto quanto aveva fatto per William doveva essere messo sul conto del suo grande, ineguagliato amore per lei, si sentì tutta smarrita e per alcuni istanti fu incapace di parlare. Considerò il tutto come qualcosa di insensato, come un semplice scherzo, una forma di galanteria, inteso solamente a illuderla sul momento. Ebbe la sensazione che quello fosse un modo di trattarla improprio, indegno, un modo che lei non aveva meritato, ma che era degno di lui e completamente consono con quanto gli aveva visto fare in passato. Tuttavia si trattenne da lasciar trapelare nemmeno la metà della sua ripulsa, perché era conscia dell'obbligo che aveva nei confronti di lui, un obbligo che era e rimaneva grandissimo. Mentre il cuore ancora le batteva precipitosamente di gioia e di gratitudine al pensiero di William, non poteva nutrire serio risentimento per qualcosa che offendeva solamente lei, e dopo aver ritirato 2 volte la mano e aver tentato inutilmente 2 volte di allontanarsi da lui, si rizzò e disse con grande agitazione: «Non faccia così, Mr. Crawford, la prego, non faccia così. No, la prego, questo è un genere di discorso molto spiacevole per me. Devo andarmene, non lo posso sopportare». Ma lui continuava a parlare, descrivendo il suo amore, sollecitandone il contraccambio e finalmente, in parole così chiare da non poter essere frainteso, offrendo la sua persona, la sua mano, le sue sostanze, ogni cosa all'accettazione di lei. Era proprio così, lo aveva detto chiaramente. Lo sbalordimento e la confusione di Fanny aumentarono e senza sapere ancora decidersi a supporre che parlasse sul serio, quasi non si reggeva in piedi e gli insisteva per una risposta. «No, no, no, no!» esclamò Fanny nascondendosi il viso fra le mani. «È tutta una cosa insensata! Oh, non mi sconvolga, non posso sopportarlo oltre! La sua bontà per William mi obbliga verso di lei più di quanto possa esprimere, ma non voglio, non posso sopportare, non devo ascoltare tali, no, no, non pensi a me, ma lei non pensa veramente a me, so che tutto questo non significa niente». Si era allontanata impetuosamente da lui e proprio in quel momento si udì Sir Thomas che parlava a un domestico mentre si avvicinava alla stanza dove essi si trovavano. Non era il momento per ulteriori assicurazioni e pressanti richieste e separarsi da lei proprio sul punto in cui solo la sua modestia sembrava, alla mente ottimista e previamente sicura di lui, opporsi alla felicità che bramava, fu una crudele necessità. Fanny Corse impetuosamente fuori dalla porta opposta a quella a cui lo zio si avvicinava e si trovò a passeggiare su e giù nella stanza a est, nella massima confusione di contrastanti sentimenti, prima che la cortese accoglienza e le scuse di Sir Thomas si fossero esaurite ed egli fosse messo al corrente della lieta notizia che il visitatore recava con sé. Sentiva, pensava, tremava, combattuta da ogni cosa, agitata, felice, desolata, infinitamente grata, profondamente indignata. Era tutto quanto così incredibile. Non aveva scusa, era incomprensibile, ma la sua abituale condotta era tale che egli non poteva far nulla senza mescolarvi un non so che di cattivo. Prima l'aveva resa la più felice delle creature e poi l'aveva insultata. Non sapeva cosa dire, come classificare o come considerare quanto accadeva. Non avrebbe voluto che egli fosse serio, eppure cosa poteva giustificare le parole dette e le offerte fatte se significavano solamente uno scherzo? Ma William era attenente. Questo era un fatto certo, indubitabile, senza ombra. Avrebbe ricordato sempre questo e dimenticato il resto. Mr. Crawford certamente non le si sarebbe rivolto più a quel modo, aveva dovuto rendersi conto di quanto le era stato sgradito e in questo caso con quanta gioia lo avrebbe stimato a motivo della sua amicizia per William. Quando uscì dalla stanza est, non si spinse oltre i primi gradini dello scalone finché non fu sicura che Mr. Crawford aveva lasciato la casa. Ma appena ebbe la certezza che se n'era andato, si affrettò a scendere, ansiosa di trovarsi con lo zio, vedere la gioia di lui e manifestare la propria e ascoltare le sue informazioni, le sue congetture su quella che ora sarebbe stata la destinazione di William. Sir Thomas era tanto pieno di gioia quanto lei lo poteva desiderare e molto affettuoso e comunicativo. E Fanny ebbe con lui una conversazione così distensiva a proposito di William, da darle l'impressione che nulla fosse intervenuto a recarle turbamento. Questo finché non scoprì, verso la fine del colloquio, che Mr. Crawford era stato invitato a tornare a pranzare con loro quel giorno stesso. Fu una notizia oltremodo sgradita, perché anche se lui poteva non dar la minima importanza a quanto si era svolto fra loro, per lei era assai imbarazzante rivederlo così presto. Tentò di vincere quel sentimento, tentò in tutta coscienza, a mano che l'ora del pranzo si avvicinava, se non di essere, almeno di apparire del solito umore. Ma le fu assolutamente impossibile non evitare un atteggiamento irritroso e inibito quando il loro visitatore entrò nella sala. Non avrebbe mai supposto che fosse possibile a qualsiasi concorso di circostanze suscitare in lei sentimenti così penosi proprio nel giorno in cui aveva saputo della promozione di William. E non solo, Mr. Crawford era nella stanza. Ben presto le venne vicino. Aveva da consegnarle una lettera della sorella. A Fanny non riuscì di fissarlo, ma non vi era segno nel tono della voce che gli fosse conscio della sua follia di poche ore prima. Aprì subito la lettera, lieta di avere qualcosa da fare e lieta mentre la leggeva di rendersi conto che il trafficare della zia Norris, che quella sera pranzava anche lei con loro, la sottraeva in parte all'attenzione degli altri. Mia cara Fanny, scriveva Mary, poiché ormai potrò chiamarla sempre così con infinito sollievo della mia lingua che ha inciampato sul Miss Price almeno per le ultime 6 settimane. Non posso lasciare uscire mio fratello senza inviarle poche righe di generali congratulazioni ed esternarle il mio più gioioso consenso e la mia approvazione. Proceda, mia cara Fanny, senza timori. Non vi possono essere difficoltà che meritino di essere considerate tali. Voglio credere che il mio consenso conti qualcosa, così questa sera potrà sorridergli con i suoi sorrisi più dolci e rimandarmelo a casa ancora più felice di quando è uscito. Con affetto, Mary Crawford. Non erano espressioni che potessero allietare Fanny. Infatti, benché avesse letto il messaggio troppo rapidamente, con la mente troppo confusa per farsi un'idea precisa di ciò che Miss Crawford intendesse dire, era evidente che l'aveva scritto allo scopo di congratularsi con lei per la dichiarazione del fratello, non solo, ma allo scopo apparente di convincerla che si trattava di una dichiarazione sentita e sincera. Fanny non sapeva che fare e che pensare. L'idea che si trattasse di una cosa seria la rendeva infelice, Ogni altro modo di considerarla la riempiva di perplessità e di agitazione. Si sentiva sconvolta ogni qualvolta Mr. Crawford le parlava, e le parlava troppo spesso, e nella sua voce, nei suoi modi, avvertiva con timore, o credeva di avvertire, qualcosa di molto diverso da quello che notava nella sua voce e nei suoi modi quando si rivolgeva agli altri. Il pranzo divenne un incubo. Non riusciva a inghiottire un boccone, e quando Sir Thomas osservò scherzosamente che la gioia le aveva tolto l'appetito, sarebbe morta di vergogna al pensiero di quella che avrebbe potuto essere l'interpretazione di Mr. Crawford. Anche se nulla poteva indurla a volgere gli occhi alla sua destra, là dove gli era seduto, sentì che i suoi occhi si posavano immediatamente su di lei. Era più silenziosa che mai. Stentò a pronunciar parola anche quando gli altri presero a parlare di William, perché anche la nomina di William veniva dalla sua destra e quella connessione le dava pena. Pensò che Lady Bertram tardasse più del solito ad alzarsi da tavola e cominciò a disperare di poter allontanarsi da lì, ma finalmente raggiunsero il salotto e fu libera di pensare come voleva, mentre le due zie seguitavano, ciascuna secondo il suo stile, a parlare della nomina di William. Mrs. Norris sembrava soddisfatta del risparmio che ne sarebbe derivato a Sir Thomas, più che di qualsiasi altra cosa, perché ora, argomentava, William sarebbe stato in grado di mantenersi da sé e ciò avrebbe fatto un'enorme differenza per lo zio. Nessuno immaginava quanto gli fosse costato. E certo, anche nei regali di lei, Mrs. Norris avrebbe fatto una certa differenza. Era molto contenta di aver dato a William quello che gli aveva dato al momento della partenza. Davvero molto contenta di averlo potuto fare, senza che le fosse sul momento di vero e proprio inconveniente dargli una somma piuttosto consistente, consistente per lei, dati i suoi mezzi molto limitati, perché ora il tutto gli sarebbe servito per sistemare la sua cabina. Sapeva che avrebbe dovuto incorrere in qualche spesa, dovendo comprare molte cose, ma senza dubbio sua madre e suo padre erano in grado di consigliarlo su come ottenere molte cose a buon mercato. Comunque, era molto contenta di avere contribuito con la propria briciola alla sua sistemazione. «Sono contenta che lei gli abbia dato una somma consistente», disse Lady Bertram con una calma assolutamente priva di ironia. «Perché io gli ho dato solamente 10 sterline». «Davvero?» esclamò Mrs. Norris arrossendo. «Parola d'onore, deve essere partito con le tasche ben foderate e senza nessuna spesa per il viaggio fino a Londra, inoltre». «Sir Thomas mi aveva detto che 10 sterline sarebbero state sufficienti». Mrs. Norris, non essendo assolutamente incline a discutere se fossero o meno sufficienti, incominciò a trattare l'argomento da un altro punto di vista. «È sbalorditivo», disse, «quanto i giovani costino ai loro parenti. Tra il tirarli su e l'introdurli in società, loro pensano poco a che cifra ammonti la cosa o a quello che i genitori, gli zii e le zie spendono per loro nel corso di un anno. Ecco, prendiamo ad esempio i figli di mia sorella Price. Messi tutti insieme, sono certa che nessuno crederebbe quale somma costano a Sir Thomas ogni anno, per non dir nulla di quello che io faccio per loro». «Verissimo, sorella, proprio come dice lei, ma poverini, non è colpa loro, e lei sa che fa pochissima differenza per Sir Thomas. Fanny, William non deve dimenticare il mio scialle se andrà nelle Indie Orientali, e gli darò incarico per tutto quanto merita di essere acquistato laggiù. Spero che sarà mandato nelle Indie Orientali di modo che possa farmi avere il mio scialle, anzi penso che vorrò 2 scialli, Fanny». Fanny, frattanto, parlando solo quando non poteva farne a meno, era impegnatissima a tentare di capire a cosa mirassero Mr. e Miss Crawford. Ogni cosa parlava contro la serietà delle loro intenzioni, eccetto le parole e i modi di lui. Ogni cosa naturale, probabile, ragionevole, era contro una interpretazione positiva. Tutte le loro abitudini e il loro modo di pensare, e tutti i personali demeriti suoi. Come poteva aver fatto nascere un sentimento serio in un uomo che aveva conosciuto tante donne, era stato ammirato da tante, aveva amoreggiato con tante infinitamente superiori a lei? Un uomo che sembrava così poco aperto a ricevere impressioni durature, anche quando altre si erano date tanto da fare per piacergli, che pensava con tanta leggerezza, tanta trascuraggine, tanta mancanza di sentimento su tutte le cose serie? che era tutto per tutti quanti, pur sembrando non trovare nessuno che gli fosse essenziale? E inoltre, come si poteva supporre che Mary, con tutte le sue altere e mondane nozioni sul matrimonio, fosse favorevole al serio progetto di un'unione così al di sotto della posizione sociale sua e del fratello? Niente poteva essere più contrario all'indole di ambedue. Fanny perfino si vergognava di esitare in proposito. Tutto poteva essere possibile all'infuori di un sentimento serio da parte dell'uno o di una seria approvazione da parte dell'altra riguardo alla sua persona. Se ne era fermamente convinta prima che Sir Thomas e Mr. Crawford le avessero raggiunte in salotto. La difficoltà fu di poter prendere parte alla conversazione dopo che Mr. Crawford fu nuovamente presente, poiché una o due volte sorprese un suo sguardo che non seppe come classificare secondo il metro corrente. O perlomeno, venendo da parte di qualsiasi altro uomo, avrebbe detto che significava qualcosa di molto ardente, di molto intenzionale. Ma ancora tentò di convincersene, niente più di quanto egli poteva aver espresso più e più volte alle sue cugine e a 50 altre donne. Pensò che desiderasse parlarle senza essere udito dagli altri, immaginò che lo tentasse durante tutta la serata, a intervalli, ogni qualvolta Sir Thomas usciva dalla stanza o era impegnato con Mrs. Norris. E accuratamente fece in modo di rifiutargliene ogni opportunità. Finalmente, il finalmente sembrò appropriato al nervosismo di Fanny, benché non fosse molto tardi. Incominciò a parlare di andarsene, ma il sollievo che ne derivò a Fanny andò perduto quando, subito dopo, si rivolse a lei dicendo: «Non ha niente da mandare a dire a Mary? Nessuna risposta al suo biglietto? Sarà delusa se non riceverà una parola da lei. La prego, le scriva anche una sola riga». «Oh, sì, certamente», esclamò Fanny, rizzandosi in fretta, la fretta dell'imbarazzo e del desiderio di allontanarsi. «Le scrivo subito». Andò quindi al tavolino dove era solita scrivere a nome della zia e preparò carta e penna, senza avere la minima idea di quello che avrebbe dovuto dire. Aveva letto il biglietto di Miss Crawford una sola volta e il come rispondere a qualcosa che aveva capito così imperfettamente era estremamente difficile. Del tutto inesperta in quel genere di messaggi, se vi fosse stato tempo di dar via libera agli scrupoli e alle preoccupazioni per lo stile, li avrebbe sofferti abbondantemente, ma doveva scrivere qualcosa senza indugio e con un'unica idea ben chiara, la volontà di non dare l'impressione di credere che si fosse alluso a qualcosa di veramente serio. Scrisse quanto segue con gran tremore di spirito e di mano. «Le sono molto obbligata, mia cara Miss Crawford, per le sue gentili congratulazioni fin dove hanno a che fare col mio carissimo William. Il resto del suo biglietto non significa niente, lo so, ma sono così inesperta in cose del genere che spero vorrà scusarmi se le chiedo di non darvi ulteriormente peso. Ho visto troppo da vicino Mr. Crawford per non capire i suoi modi. Se mi capisse altrettanto bene, agirebbe, oso dirlo, in modo diverso con me. Non so bene quel che scrivo, ma sarebbe un gran favore da parte sua non toccare mai più l'argomento. Ringraziandola per l'onore del suo biglietto, rimango, cara Miss Crawford, eccetera, eccetera». La conclusione riuscì quasi inintellegibile a causa della crescente agitazione. Si accorse infatti che Mr. Crawford, con il pretesto di farsi dare il biglietto, stava avvicinandosi. «Non deve pensare che voglia farle fretta», disse egli a bassa voce, accorgendosi della straordinaria trepidazione con cui vergava lo scritto. «Non può pensare che abbia una qualsiasi intenzione del genere. Non si affretti, la prego». «Oh, grazie. Ho finito, sto per finire. Sarà pronto in un istante, le sono obbligatissima, se vuole essere così buono da consegnarlo a Miss Crawford». Il biglietto fu pronto e dovette essere preso, e poiché Fanny, a occhi bassi, mosse istantaneamente verso il caminetto, intorno al quale sedevano gli altri, a lui non restò che andarsene senza indugiare oltre. Fanny pensò che mai prima d'allora aveva vissuto un giorno così pieno di agitazione, di pena come di gioia. Ma fortunatamente il piacere non era di quelli che muoiono col giorno che li ha portati, poiché ogni giorno le avrebbe ridato la certezza della promozione di William. Mentre, lo sperava, la pena non sarebbe mai più tornata. Non dubitava che il suo biglietto desse l'impressione di essere scritto malissimo, che il modo in cui era stilato avrebbe fatto vergogna a una bambina, poiché, sconvolta com'era, non aveva avuto modo di preoccuparsi dello stile, ma perlomeno li avrebbe assicurati ambedue che non si era lasciata ingannare e che non era lusingata dalle attenzioni di Mr. Crawford.